Focus Economia. Le 17 e 7 minuti, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di cosa parleremo oggi? Sicuramente torneremo, come è normale che sia, sul referendum per l'accordo di Mirafiori. Come sapete, come vi abbiamo ampiamente raccontato nei nostri giornali radio, come avete letto sui giornali, ha vinto il sì con un 54% delle preferenze, dovuto in gran parte agli impiegati, anche se anche tra gli operai si è raggiunta la maggioranza, seppur con un margine risicato di 9 voti. Torneremo a parlarne, sentiremo il commento del professor Pietro Ichino e toccheremo anche il tema che si sta aprendo in questa fase, anche sulla scorta di una lettera inviata dalla CGIL agli altri sindacati e alle controparti, Confindustria compresa, sul tema della rappresentanza, che detto così può voler dire poco, ma in sostanza significa quanti lavoratori iscritti deve avere un sindacato per essere considerato rappresentativo e per quindi per essere rappresentato, che percentuale deve rappresentare perché un accordo abbia l'ok, in quali casi deve intervenire il referendum. La CGIL su questo vorrebbe una legge, tra l'altro ce ne sono anche di depositate in Parlamento a firme dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico. La CISL e la UIL stanno ragionando su come rispondere a queste indicazioni della CGIL, quindi toccheremo anche questo argomento. Nel frattempo la reazione ai titoli Fiat in borsa è buona, Fiat Industrial guadagna il 2,7% e Fiat guadagna l'1% in un mercato complessivamente negativo, 0,5 punto percentuale di calo per il FTSE MIB e altrettanto per il FTSE All Share, e il resto d'Europa negativa, anche se non così tanto. Francoforte lascia sul terreno appena uno 0,01% e Wall Street, che non è aperta oggi perché è il Martin Luther King Day, verrebbe da dire meno male, quantomeno per Apple, perché la notizia, vi abbiamo dato anche nei giornali radio, della nuova malattia di Steve Jobs sta facendo letteralmente crollare il titolo a Francoforte, dove è anche quotata Apple, che scende del 6-7%. Parleremo di questo, parleremo della maxi commessa ricevuta da Alenia. Poi toccheremo anche il tema di Parmalat. Oggi, come sapete, ci sono le richieste di risarcimento dei PM per una serie di banche internazionali. Infine la Tunisia. Perché parleremo di Tunisia? Perché innanzitutto le rivolte che ci sono state in Tunisia, così come in Algeria, e qualche piccolo segnale inizia ad arrivare anche dall'Egitto, sono rivolte che hanno una base fondamentalmente economica, insomma i rincari dei prezzi alla fin fine, e poi perché in Tunisia ci sono parecchi imprenditori italiani, circa un quarto, poco meno di un quarto delle imprese straniere che si trovano in Tunisia sono italiane. Sentiremo le voci che abbiamo raccolto in questa giornata. Il numero per intervenire in diretta, come sempre, 349-238-6666. Le notizie in breve di questa giornata. Iniziando come sempre dal petrolio, oggi in lieve calo, $91,2 al barile. In apertura il Brent a New York, il Brent a 97,9, in calo di 44 centesimi. Si diceva, meno male che Wall Street non è aperta, anche perché ci sono anche le dichiarazioni di un consigliere della Federal Reserve, Charles Plosser, che da gennaio ha un seggio votante sui temi della politica monetaria nel Federal Open Market Committee, e dice non si può escludere l'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse di riferimento americani quest'anno. Ci sono sempre in tema di economia internazionale, però veniamo un po' più vicini a noi, a quel che riguarda l'Europa, le dichiarazioni, la posizione della Commissione europea. Stasera tra l'altro si riunirà l'Eurogruppo sulla necessità di aumentare le risorse del Fondo Salva Stati, posizione che non cambia nonostante le resistenze della Germania. Il presidente Barroso, ha detto un portavoce dell'esecutivo europeo, ha sottolineato come la capacità effettiva di finanziamento del fondo debba essere rafforzata. Attualmente il fondo salva stati è dotato di 440 miliardi di euro, di cui 85 già stanziati per aiutare l'Irlanda. Sono balzati nel frattempo gli acquisti di titoli di Stato europei da parte della Banca Centrale Europea a 2,3 miliardi di euro la scorsa settimana. Alla data del 14 gennaio i bond comprati dalla BCE avevano totalizzato 76 miliardi e mezzo di euro. Per quanto riguarda la Spagna, invece, ha annullato le due aste in programma il 20 gennaio per la vendita di titoli con scadenza nel 2020 e 2024. Le rimpiazzerà, a quanto pare, con un prestito obbligazionario sindacato. E parliamo di Cina in Europa. La più grande banca commerciale cinese, la Industrial and Commercial Bank of China, crede nell'Europa e nell'euro, è quello che dice il suo presidente Jiang Xiangqing in una conferenza stampa tenuta in Lussemburgo per presentare l'apertura di 5 nuove filiali nell'Unione Europea, tra cui una a Milano, dove la sede sotto la galleria a due passi dal Duomo sarà operativa da domani. Ha realizzato un'intervista con il presidente appunto di Industrial and Commercial Bank of China, Antonio Pollio Salimbeni, dell'agenzia di stampa Radio Core, il Sole 24 Ore. Il nostro principale obiettivo, chiaramente, è di estendere i servizi offerti dal nostro gruppo alla clientela italiana. Nel vostro paese abbiamo un mercato di nicchia che coinvolge principalmente società e privati che hanno relazioni strette con la Cina. Ma ora vorremmo ampliare la gamma di prodotti e l'offerta. Pensiamo che il nostro punto di forza sarà la possibilità di essere come un ponte tra i due paesi. E quindi cercheremo di rafforzare la nostra offerta. Per esempio, fornire una maggiore gamma di soluzioni alle imprese italiane che hanno rapporti commerciali con la Cina, rendendo più rapido il trasferimento di fondi, sia di società che di privati, tra l'Italia e la Cina. A proposito di banche e di banchieri, sta facendo tremare una parte del mondo, presumibilmente di quello che un tempo si chiamava bel mondo, Rudolf Elmer, banchiere svizzero che oggi ha consegnato a Wikileaks i nomi di migliaia di potenziali grandi evasori. Ho provato ad avvicinare autorità e media nella mia battaglia contro le banche, non c'è stato nulla da fare. Wikileaks è la mia ultima speranza, ha detto. Per conto suo, il capo di Wikileaks, Julian Assange, ha ricevuto i due CD e ha detto che ne valuterà la pubblicazione probabilmente tra un paio di settimane. L'uomo, Rudolf Elmer, è un ex direttore di una banca svizzera alle Cayman. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo quel che riguarda Parmalat oggi, ne tratteremo più avanti, dopo le 18. Il PM di Milano Eugenio Fusco ha chiesto confische per quasi 120 milioni di euro per Morgan Stanley e Deutsche Bank, Citigroup e Bank of America, e per ognuna delle quattro banche imputate una sanzione da 900.000 euro. Sempre notizie dal mercato, occhi puntati da parte della Consob sulla pubblicità di prodotti finanziari non azionari, soprattutto obbligazioni bancarie. Quanto ha annunciato la Commissione, che ha sottoposto al mercato la bozza di una comunicazione che contiene alcune raccomandazioni riguardanti in particolare appunto le obbligazioni bancarie. L'obiettivo è fornire indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni a fronte di messaggi il cui contenuto non appare del tutto in linea con i principi normativi in vigore. Infine, il quadro dell'economia un po' più generale. Nel quarto trimestre 2010 la percentuale delle aziende che segnalano una condizione economica invariata rispetto al periodo precedente è rimasta maggioritaria e costante, segnala Banca d'Italia nell'indagine campionaria condotta con il Sole 24 Ore su 481 imprese. E poi la Confcommercio: gli italiani guardano al 2011 con cauto ottimismo, poco meno di 7 su 10 ritengono infatti che la situazione del paese sarà uguale o migliore rispetto a quella dell'anno appena trascorso. Veniamo al primo tema di questa giornata, ossia Fiat. dicevamo, in apertura la vittoria risicata del sì nel referendum sull'ipotesi di accordo per lo stabilimento di Mirafiori, risicata anche se poi, come si diceva, anche gli operai hanno votato sì, hanno, anche se il voto per il sì ha prevalso per 9 voti. Che cosa si prevede da questo piano? Lo ricordiamo ancora, nuovi investimenti per oltre 1 miliardo di euro, la possibilità e l'obiettivo di alzare la capacità produttiva della fabbrica dalle attuali 120.000 a 250-280.000 vetture l'anno, producendo SUV a marchio Jeep e le nuove berline a marchio Alfa Romeo. Però il tema è essenzialmente sindacale in queste ore, naturalmente, perché c'è una questione che riguarda il rapporto tra la CGIL e la FIOM, naturalmente, e c'è la questione, il tema della rappresentanza. Saluto il professor Pietro Ichino, giuslavorista, senatore del Partito Democratico, che spesso ci aiuta a districarci in queste cose. Professore, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori e a lei naturalmente. Buonasera. Allora, io inizierei però, professore, sentendo un paio di minuti di file audio, a partire dalle dichiarazioni di ieri della segretaria della CGIL Susanna Camusso, che è intervenuta alla trasmissione di Lucia Annunziata su Rai 3 in mezz'ora, ha parlato naturalmente del rapporto con la FIOM, dicendo in sostanza, ribadendo la sua posizione, non possiamo stare fuori dai cancelli di Mirafiori. Perché? Perché chi non ha firmato l'accordo di fatto non ha il diritto di rappresentanza all'interno della fabbrica. Quindi, suggerisce Camusso, mettiamo, la FIOM metta una firma tecnica per rimanere dentro la fabbrica. Ascoltiamola. Noi abbiamo dato lo stesso giudizio sulla qualità di quell'accordo. Diamo da mesi lo stesso giudizio sul fatto che non c'è stata una discussione e non si conosce il piano industriale della Fiat. Siamo molto convinti di essere di fronte a una partita non chiara e rispetto alla quale il governo non ha fatto il suo mestiere. Poi abbiamo anche delle opinioni diverse, per esempio probabilmente dovremo continuare a discuterne. Noi pensiamo che non si possa essere fuori da quella fabbrica, che di fronte al voto dei lavoratori, con quel voto bisogna misurarsi e bisogna non semplicemente dire che non lo si riconosce, non è sufficiente. Bisogna misurarsi con quel voto e bisogna interrogarsi sul fatto che se noi vogliamo, e vogliamo, essere il sindacato di quei lavoratori, perché lo si sia davvero, bisogna essere dentro la fabbrica e non fuori dai cancelli. È una discussione che va fatta con la dovuta tranquillità, perché è una discussione difficile. Però io credo che non sia mai sufficiente dire che si può ricorrere alla magistratura, cosa che per le cose che riterremo opportuno faremo, ma non basta dire. Ah sì, che farete, ricorrete alla magistratura? Valuteremo, ci possono, sicuramente ci sono dei diritti che non sono a disposizione di nessun accordo sindacale, che vanno salvaguardati. Intanto il diritto di sciopero, perché nelle tante cose che si sono dette, tutti si sono spesso affrettati a dire non è vero che lì c'è un vincolo che impedisce lo sciopero. Noi interpretiamo così con la clausola di responsabilità, quando abbiamo detto alla Fiat se non è quello scrivilo, cambiala, tutto questo non è avvenuto. Allora, per esempio, se ci fosse una, come noi diciamo, una clausola che impedisce a un lavoratore di partecipare a uno sciopero, quello è sicuramente tema che arriva fino alla Corte Costituzionale, perché siamo di fronte a diritti che non sono disponibili né a un'impresa né a un sindacato. Allora, così Susanna Camusso, da dire che sul tema della firma tecnica, perché sul tema di un eventuale ricorso alla magistratura, la linea tra FIOM e CGIL è simile, la risposta di Landini è stata secca, il segretario della FIOM, la firma tecnica non esisteva e dice ancor meno ora. Allora, professor Ichino, poi verremo al tema della rappresentanza sindacale. Si diceva già prima, la CGIL ha inviato un messaggio agli altri sindacati e anche alle controparti, Confindustria compresa, su questo tema, perché vorrebbe arrivare ad una legge sulla rappresentanza sindacale. Le chiedo però, prima di tutto, come dire, una sorta di previsione, possibili esiti di quella che si sta confermando come una sorta di braccio di ferro tra la CGIL e il suo sindacato di metalmeccanici. Cosa vede lei per i prossimi mesi, professore? Questa cosa della firma tecnica mi vede molto perplesso, per un motivo molto semplice, che quando si firma non si può dire io firmo solo la parte del contratto che mi piace un po' di più o mi dispiace meno e non l'altra parte. E quindi firmando questo accordo, sia pure obtorto collo, la FIOM firmerebbe anche la clausola di tregua, cioè l'impegno a non proclamare scioperi contro il contratto. E questo la FIOM capisco che non voglia farlo, perché è totalmente estraneo alla sua posizione, contrario a quanto ha detto fin qui, e quindi mi sembra molto difficile che la FIOM accolga questa richiesta che le viene da Susanna Camusso. E d'altra parte Susanna Camusso ha detto anche tra le righe, un po' in sindacalese, una cosa molto importante, è che ancor di più penso dispiace alla FIOM, cioè ha parlato di garanzia, ha detto noi siamo disponibili a discutere delle garanzie di esigibilità del contratto, che con un termine un po' ermetico, ma in sostanza allude all'efficacia della clausola di tregua, cioè dell'impegno a non proclamare scioperi contro il contratto, e questa è una novità da non sottovalutare. Io ho l'impressione che Susanna Camusso abbia espresso, ma anche con una certa virulenza e toni molto forti, la propria disapprovazione nei confronti del contenuto del contratto, ma poi però, diciamo, dando indicazioni di prospettiva, abbia dato delle indicazioni che sostanzialmente affrontano nel merito le questioni grosse che questa vicenda pone, e le affronta con qualche apertura in più rispetto alla posizione tradizionale della CGIL, il che mi fa piacere, perché credo che di questo il sistema delle relazioni industriali italiane abbia bisogno oggi, ma mi sembra che non preluda a niente di buono per quel che riguarda i rapporti tra CGIL e FIOM. Temo almeno che i rapporti saranno tesissimi e non si arriverà facilmente su queste basi a un'intesa tra l'organizzazione generale e la sua sezione dedicata ai metalmeccanici. Una composizione quindi difficile. Veniamo al tema della rappresentanza. Insomma, lo dicevamo in apertura, quando si parla in questi termini, lei stesso ci ha aiutato, professore, ad interpretare un pochino il sindacalese nella fattispecie le parole che ha detto Susanna Camusso. Sembra un tema astratto, in realtà è un tema essenziale, che in particolare si apre per quanto riguarda il sindacato, la CGIL e la FIOM, a seguire la vicenda di Mirafiori. Insomma, vuol dire chi banalmente può essere rappresentato all'interno di un'azienda, ad un tavolo di trattativa sindacale, vuol dire quando scatta il referendum, per quali motivi e così via. Distinguiamo due temi, due questioni. Una è quale sindacato ha diritto alla rappresentanza riconosciuta con tutti i relativi diritti, quindi permessi retribuiti, convocazione di assemblea, affissioni in azienda, locale per le riunioni e così via. E l'altra è la questione come si nominano i rappresentanti, i singoli rappresentanti. Sulla prima questione, l'accordo di Mirafiori ha applicato l'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, così come questa norma è stata modificata dal referendum del 95, tra l'altro promosso da Rifondazione Comunista. L'accordo quindi non può considerarsi illegittimo e neanche incostituzionale, perché l'articolo 19 dello Statuto è stato ritenuto costituzionale dalla Consulta per ben 4 volte, con 4 sentenze negli ultimi 15 anni. Questo non toglie che quella norma sia poco compatibile con il principio del pluralismo sindacale, che nel nostro sistema è un principio cardine e molto radicato nella nostra cultura. Per questo, molto prima che scoppiasse questa questione, l'avvertenza Fiat, io ho presentato con altri 54 senatori del PD un disegno di legge nel 2009 che mira a chiarire i diritti della coalizione sindacale maggioritaria, diritto in particolare a stipulare un contratto con efficacia vincolante per tutti, compresa la clausola di tregua, e i diritti della minoranza. Anche se rifiuti di firmare il contratto, cosa del tutto legittima e fisiologica in un regime di pluralismo sindacale, hai diritto, in proporzione al seguito che hai, ad avere i tuoi rappresentanti riconosciuti in azienda. E questo dovrebbe risolvere il problema di ridare voce e legittimazione, diciamo, agibilità sindacale alla FIOM nel luogo di lavoro. Sì, nel luogo di lavoro, non solamente Mirafiori. Mi sembra che, tra l'altro, dalle indiscrezioni che sono circolate, il testo della CGIL risponda più o meno, insomma, sia più o meno messo negli stessi termini. Poi, per carità, sono tutte indiscrezioni, sappiamo che... Il testo della CGIL ancora non lo conosce nessuno. Io ho delle indiscrezioni in proposito. Lì si aprirà un problema che sarà, temo, quello che farà sì che non si raggiungerà un accordo fra CGIL e CISL su questo punto, perché la CGIL chiede che la legge o l'accordo interconfederale ricalchi il modello delle RSU, cioè di una rappresentanza sindacale unitaria, organo a sé stante, che trae la sua investitura interamente ed esclusivamente dalla elezione dal basso da parte dei lavoratori. La CISL invece chiede che venga salvaguardato il rapporto organico tra il rappresentante in azienda e il sindacato di appartenenza, e che è il modello, diciamo, fatto proprio dallo Statuto dei Lavoratori nel 1970. Che vuol dire in sostanza, quando la Confederazione decide una cosa, il sindacalista interno all'azienda risponde all'ordine di scuderia, punto. Però, questo significa anche che i sindacati si possono distinguere per le modalità di designazione del rappresentante. Ci può essere il sindacato che sceglie di far eleggere i propri rappresentanti dai lavoratori oppure dall'assemblea dei propri iscritti, e invece il sindacato che nomina il proprio rappresentante dal di fuori, diciamo. Ora, lo Statuto dei Lavoratori, fin dall'inizio, fin dal 70, non dal 95, per questo aspetto è rimasto immutato da 40 anni a questa parte. Lo Statuto dei Lavoratori lascia al sindacato, quindi alla sovranità statutaria di ciascun sindacato, la scelta sul come arrivare alla designazione dei propri rappresentanti, e questa sovranità è stata poi esercitata dai sindacati, dalle confederazioni maggiormente rappresentative, in varie forme, con l'elezione dei consigli di fabbrica, poi col protocollo del 93 in quella forma particolare che prevedeva l'elezione dal basso di 2/3 dei rappresentanti e 1/3 invece designati dal di fuori, dalle associazioni. Era un po' un compromesso fra quelle due idee che dicevo prima. Oggi lo statuto continua a lasciare questa sovranità statutaria alle associazioni. Non è affatto detto che alla Fiat CISL e UIL non decidano, e FISMIC e UGL non decidano di fare eleggere i propri rappresentanti dai lavoratori, ma su questo punto c'è un contrasto tra ciò che chiede la CGIL e ciò che chiedono CISL e UIL. Ecco, da questo lato naturalmente si vedrà, e vedremo poi quando avremo in mano appunto anche la proposta della CGIL. Un'ultima domanda, professore, mi sembra che a questo punto si possa serenamente dire, per le reazioni che vediamo, per il livello di discussione che si sta aprendo, che oggettivamente da dove c'è stata anche un po' di partigianeria, si sia dalla parte di Landini o si sia dalla parte di Marchionne, comunque è un momento quasi epocale per le relazioni industriali e sindacali italiane, questo accordo di Mirafiori. Ma non c'è dubbio che questo accordo segni uno spartiacque, e basti osservare che questa vicenda ha brutalmente totalmente archiviato l'accordo del 2009, dell'anno scorso, sulla struttura della contrattazione collettiva, mostrandone la grave inadeguatezza. Lo ha archiviato non per i motivi che hanno indotto la CGIL a non firmarlo, ma per motivi diametralmente opposti. La CGIL rifiutava di firmarlo perché riteneva eccessivo il decentramento, lo spazio lasciato alla possibilità di contrattazione collettiva anche in deroga rispetto al contratto nazionale. E qui invece l'accordo si è rivelato inadeguato per eccessiva prudenza, per eccessivo centralismo. La vicenda Fiat ha strappato la tela in modo molto brusco, violento, mettendo in evidenza che cosa? Mettendo in evidenza che può essere necessario ai fini di un investimento, soprattutto investimenti di grandi multinazionali straniere, adottare piani industriali, negoziare piani industriali che per vari aspetti anche di grande importanza, come l'inquadramento professionale, per esempio la distribuzione dei tempi di lavoro, la struttura delle retribuzioni, si discostano dal modello nazionale. E questo fanno per aumentare la produttività, quindi per aprire possibilità di guadagnare di più. Chiarissimo. Se noi ci chiudiamo a questa possibilità, per paura delle innovazioni cattive, della rincorsa al ribasso, il risultato è che il paese resta fermo. Certo, ovvio. Grazie professore, grazie al professor Ichino. Le 17:40 minuti, 35 secondi, è il momento dei mercati. Livia Zancaner, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, di Fiat mi sembra che abbiamo detto ampiamente anche in apertura, un più 0,75% per SPA e un più 2,87% per Industrial. Più in generale sui mercati, i cali sono intorno al 0,5% per quanto riguarda Milano, come spesso accade in questo periodo, la peggiore d'Europa. Tra l'altro oggi Wall Street era chiusa, no? Sì, allora oggi Wall Street è chiusa per festività e appunto Milano e Madrid hanno realizzato le performance peggiori, ma bisogna ricordare che nelle ultime quattro sedute sono le borse che hanno guadagnato di più. Infatti Milano nelle ultime quattro sedute ha guadagnato circa il 7% e Madrid il 10%, probabilmente anche per questo che sono le due borse che hanno chiuso con cali più pesanti. Inoltre bisogna dire che i mercati oggi sono in attesa anche delle notizie provenienti da Bruxelles, dove si sono riuniti i ministri dell'economia e delle finanze, quindi comunque ha prevalso la cautela anche a causa della chiusura del mercato americano. Sì, qualcosina tra l'altro sul famoso fondo salva stati europeo sta già uscendo, tra l'altro i tedeschi che ribadiscono la loro posizione, col ministro Schäuble che dice nessuna urgenza di aumento del fondo e Jean-Claude Juncker che dice insomma per oggi, almeno per oggi, nel corso dell'Eurogruppo non ci sarà nessuna decisione. Allora, di Fiat abbiamo detto, di Finmeccanica parleremo tra un attimo perché c'è stata un'importante commessa. Ti chiederei notizie su questo buon andamento di Pirelli, c'è qualche motivo particolare? Sì, allora per quanto riguarda Pirelli bisogna dire che la notizia si riferisce al giudizio di una banca d'affari che ha confermato il consiglio buy, quindi comprare per quanto riguarda il titolo, senza considerare però l'impatto del recente balzo della gomma naturale, che però secondo altri esperti potrebbe essere compensato con nuovi aumenti dei prezzi, quindi complessivamente il giudizio sul titolo resta positivo. Bene, oggi anche Tenaris, cos'è, una sorta di rimbalzo? Sì, infatti Tenaris nelle ultime due sedute aveva perso oltre il 7%, questo perché sul mercato erano circolate voci relative a conti trimestrali deludenti. I conti saranno pubblicati il 23 febbraio prossimo. Oggi in realtà Tenaris ha comunicato al mercato di non essere a conoscenza di alcuna circostanza straordinaria che potrebbe modificare quanto già comunicato in passato, quindi sostanzialmente ha smentito che ci potrebbe essere un allarme, quindi sugli utili, sui conti. Bene, nel giorno delle richieste dei PM nei confronti delle banche estere, Parmalat guadagna lo 0,6%. Ci siamo dimenticati di darvi, nell'ambito dell'andamento positivo di Fiat, anche Exor che guadagna lo 0,45%. Andiamo sui titoli negativi, meno 2,90% il Banco Popolare, partito l'aumento di capitale, no? Sì, allora le azioni sono state penalizzate dalle prese di profitto che hanno colpito il comparto bancario. Dopo il rally delle ultime sedute, il comparto bancario oggi in Europa ha perso circa lo 0,5%, e poi appunto oggi bisogna ricordare che è partito l'aumento di capitale, che praticamente gli azionisti potranno ricevere 7 nuove azioni del banco a un prezzo di 1,77 euro ogni 5 azioni possedute. Oggi è partita quindi la trattazione dei diritti, che hanno perso terreno, cioè hanno registrato un calo di oltre il 18%, quindi sono scese sia le azioni sia i diritti oggi in borsa del Banco Popolare. Così abbiamo risposto anche a Davide, che ci chiede esattamente questo: come funziona l'aumento di capitale del Banco Popolare. Abbiamo una breve pausa per la viabilità. Livia, resta con noi, ci risentiamo tra un attimo. Vorrei notizie su Fondiaria Saima, ormai insomma i cali sono quotidiani e costanti, un meno 2,45%, e poi Mediaset. Allora, Livia Zancaner, brevemente Mediaset e Fondiaria Saima. Allora, è stata una giornata negativa per Mediaset, che ha perso oltre il 2%. Gli operatori hanno da una parte sottolineato le vicende che hanno coinvolto il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, e dall'altra dal giudizio di alcuni esperti. Infatti gli operatori hanno sottolineato che l'azione continuerà a sottoperformare il mercato a causa in particolare del debole momento relativo all'attività operativa, della pressione competitiva e il conseguente calo dell'audience e l'incertezza politica italiana. Quindi dopo appunto il Fondiaria invece? Fondiaria è stata, allora, per Fondiaria è stata la seconda seduta negativa. Oggi il titolo ha perso il 2,5% circa. Bisogna dire che le azioni hanno guadagnato oltre il 26% nelle quattro sedute precedenti. Questo grazie alla conferma da parte del gruppo francese Groupama di essere interessate ad acquisire una quota del capitale della società del 17-20%. Quindi qualche realizzo, come anche tra l'altro ci scrive un ascoltatore. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, a Livia Zancaner. Grazie Livia e buonasera. Grazie, buonasera anche a voi. Poi tra un po' vi daremo il quadro completo del resto della giornata, magari dopo le 18, per quanto riguarda i singoli titoli. Comunque questi sono in linea di massima i temi. I bancari sono un po' tutti negativi, con Intesa San Paolo che lascia sul terreno lo 0,7, Mediobanca l'1,39, UBI il 2,38, Unicredit lo 0,76, il Monte dei Paschi lo 0,62%. Restiamo su temi di mercato anche qua, perché parliamo di una maxi commessa, Superjet International, che è una joint venture tra Alenia Aeronautica, società del gruppo Finmeccanica, e Sukhoi Holding. Ha siglato un contratto del valore di 650 milioni di dollari per la compagnia aerea messicana Interjet per l'acquisto di 15 Sukhoi Superjet 100 a lungo raggio in configurazione da 98 posti, prime consegne per il secondo semestre del 2012. L'accordo è stato firmato questa mattina a Tessera, Venezia, nella sede di Superjet International. Massimiliano Zampini di Radio Cora ha chiesto all'amministratore delegato di Alenia Aeronautica, Giuseppe Giordo, cosa rappresenti per il gruppo questa commessa. Prima di tutto rappresenta un grande successo commerciale, rappresenta la prima volta in cui un'alleanza italo-russa riesce a vendere un prodotto in campo aeronautico in una competizione molto ferrata con i nostri storici competitori, quindi come avete visto sia con Bombardier che con Embraer. più altre soluzioni che erano state considerate di aerei più grandi. Rappresenta quindi prima di tutto un grande successo commerciale, ma in secondo luogo rappresenta la conferma che la scelta strategica di partecipare come azionariato a Sukhoi Commercial Aircraft e la scelta strategica di stabilire una joint venture con Sukhoi è stata una scelta che sta incominciando a dare risultati. È una scelta che caratterizza la storia di Aleni Aeronautica. Noi tanti anni fa avevamo stabilito la joint venture ATR con i nostri colleghi francesi. Il programma era partito ovviamente con qualche problema. Il programma prevedeva la vendita di circa 200 macchine, ne abbiamo vendute più di 1000, quindi ritengo che la nostra presenza nel campo del business regionale sia confermata ulteriormente dall'alleanza che abbiamo in questo momento Superjet e da questo grande risultato, che non è soltanto un grande risultato in termini economici e finanziari, ma un grande risultato commerciale e strategico per Aleni. Eppure qualche settimana fa avete ingoiato un boccone molto amaro, la scelta a favore di Embraer da parte di Alitalia, e oggi lei è stato anche un po' polemico nei confronti della compagnia italiana. No, io non volevo essere polemico, il mio messaggio è sempre... Ho cercato di dare il messaggio che siamo stati prima di tutto sorpresi dalla scelta di Alitalia, anche perché tengo a ribadire che l'abbiamo saputo dalla stampa. In secondo luogo credo che non ci sia stata data l'opportunità finale di poter fare la migliore offerta verso Alitalia, e in terzo luogo ritengo che siamo stati sorpresi soprattutto per il fatto che a minori costi e maggiore capacità non riusciamo a capire perché non siamo stati selezionati noi. Però ripeto, Alitalia è una compagnia privata, Alitalia ha il diritto di poter fare le scelte industriali e tecnologiche che ritiene più opportune. Probabilmente però abbiamo perso una grande occasione di sistema paese e abbiamo probabilmente perso anche un'occasione per dare un ulteriore slancio commerciale nel mercato del West a Superjet. Ecco, a proposito del mercato del West, si era parlato di un interesse di Lufthansa e di altre compagnie europee, in particolare quello di Lufthansa. Cosa ci può dire? Siamo in contatto con molte compagnie europee, compresa Lufthansa. Altresì credo che esistono delle grandi opportunità anche in altri mercati nordamericani e in particolare nel mercato statunitense. L'aviazione commerciale si sta sicuramente riprendendo, il mercato dei velivoli regionali dai 90 ai 120 posti è un mercato che continua a crescere, le flotte aeree e le compagnie aeree vogliono rinnovare le loro flotte, incominciano a ricevere anche maggiori finanziamenti dopo la crisi finanziaria che c'è stata, quindi riteniamo di avere anche delle buone possibilità verso altre grandi compagnie aeree, di cui non posso dire il nome, anche negli Stati Uniti d'America. Focalizziamoci come ultima domanda su Aleni Aeronautica. Arriviamo da un 2010 molto difficile, in buona parte legato anche alle difficoltà del programma 787 della Boeing. Ecco, che 2011 si prospetta per la società, per l'occupazione e per le prospettive di sviluppo? Beh, il 2010 è stato sicuramente un anno difficile. Nella seconda parte del 2010, con la nuova leadership di Aleni Aeronautica, abbiamo cercato di integrare sempre di più il settore aeronautico e ritengo che anche l'ultima organizzazione che è stata implementata prima della fine dell'anno va sempre di più verso una maggiore integrazione delle diverse aziende del settore. Abbiamo altresì concordato un piano straordinario con le unioni sindacali, col pieno consenso delle unioni sindacali, per cercare di razionalizzare tutto il settore aeronautico per l'anno 2011 e 2012, per essere pronti poi nel 2013 a affrontare le nuove sfide con una struttura più snella, con una struttura di costi fissi minore, con un'occupazione che comunque deve rimanere sempre a un certo livello. Anche se i programmi, come precedentemente dicevo, alcuni programmi hanno sofferto parecchio, abbiamo sempre però cercato di tutelare la nostra forza lavoro e abbiamo cercato di porre in essere solo delle misure di riduzione del personale che però non comportassero dei grandi sacrifici per il personale. Quindi come scelta aziendale abbiamo scelto di usare una procedura di mobilità piuttosto che una procedura di cassa integrazione per due motivi. Il primo motivo è evidentemente quello di avere una ristrutturazione più strutturale della società, pur se ovviamente abbiamo dei maggiori costi. E il secondo motivo è stato proprio quello che noi riteniamo di avere, in aggiunta alla responsabilità del conto economico, anche una responsabilità sociale di fronte a tutte le 13.000 risorse che sono occupate nel settore aeronautico di fronte alle 24.000 risorse che sono il nostro indotto del settore aeronautico. Il programma 787 quest'anno può essere l'anno definitivo della consacrazione e della svolta, cioè che il programma si rimette sui binari giusti? Il programma 787 evidentemente non si può nascondere che stia un po' soffrendo, continua a soffrire da un punto di vista della certificazione dei velivoli. Evidentemente i problemi che ha in termini di certificazione sono un combinato di diversi problemi, quindi è difficile identificare dove sia il problema. Ritengo che il 2011 possa davvero essere l'anno di svolta. Questo dunque Giuseppe Giordo, amministratore delegato di Alenia Aeronautica. Nel frattempo si apprende che Augusta Westland si è aggiudicato un contratto del valore di circa 570 milioni di sterline con il Ministero della Difesa britannico per il secondo quinquennio 2011-2016. E sempre dal settore c'è la notizia che il costruttore europeo Airbus nel 2010 è stato il leader mondiale del settore dell'aviazione civile davanti al concorrente americano Boeing con 574 ordini netti e 510 consegne. A proposito di commesse all'estero per imprese italiane, chiudiamo con quella che riguarda Prysmian, che si è aggiudicata una commessa quinquennale per la realizzazione e la gestione della nuova rete a banda larga australiana. Il valore complessivo è di 223 milioni di euro. In realtà questo non ha mosso un granché il titolo, che ha guadagnato lo 0,07%. Adesso la pausa per il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo e ripartiremo da Parmalat. Le 18:07 minuti e 53 secondi, bentornati alla seconda parte di Focus Economia. Come promesso, un quadro finale della giornata di borsa. Molti titoli ve li abbiamo già detti. Telecom Italia giù dello 0,19%, Enel dello 0,45%, Generali dello 0,47%, giù di mezzo punto percentuale la Popolare di Milano e dello 0,6% Atlantia e Azimut. Dei bancari vi abbiamo riferito, giù anche Autogrill dello 0,66 e Campari dello 0,68. Mediolanum e Intesa San Paolo giù dello 0,78%, Snam Rete Gas dello 0,87%, dello 0,9% Bulgari e Saipem. Lottomatica di un punto percentuale, Ansaldo dell'1,07, Luxottica dell'1,12, Mediobanca dell'1,39, Eni dell'1,47, TOTS dell'1,78, giù anche Impregilo del 2,15, UbiBanca del 2,38, Fondiaria Sai, come si è detto, del 2,45, positiva invece Parmalat oggi dello 0,6%, ed è proprio da Parmalat che ricominciamo. Allora, oggi proseguono i processi per il crack Parmalat, crack, lo ricordiamo, del 2003, con 100.000 risparmiatori coinvolti, un crack da oltre 7 miliardi di euro. Oggi è arrivata la richiesta di condanna per le banche straniere. Allora, ci colleghiamo con la collega di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, Flavia Carletti. Flavia, buonasera. Buonasera a tutti. Flavia Carletti, che sta seguendo la vicenda. Allora, la questione riguarda Morgan Stanley, Deutsche Bank, Citigroup e Bank of America, no? Esattamente, e oggi appunto c'è stata, al termine di 4 giorni di udienza, di requisitoria, la richiesta da parte del procuratore Eugenio Fusco, del sostituto procuratore Eugenio Fusco, che ha fatto richieste di condanna per questi 4 istituti di credito e per alcuni loro dipendenti. In particolare il magistrato ha chiesto una sanzione pecuniaria di 900.000 euro per istituto, quindi un totale di 3,6 milioni di euro, e poi secondo i calcoli fatti dalla procura ha chiesto la confisca in caso di condanna a Morgan Stanley per 5,9 milioni di euro, a Citi di 70 milioni, Bank of America 30,7 milioni e Deutsche Bank 14 milioni, che secondo la procura sarebbe quanto le banche hanno ottenuto come profitto illecito dalle operazioni realizzate con Parmalat. Ecco, quindi è di questo che cioè di cosa esattamente sono accusate le banche, senza scendere nel dettaglio per ciascuna di queste, insomma, nel dettaglio di singola operazione, insomma, di cosa sono accusate queste banche? Sono accusate in particolare di concorso in aggiotaggio, perché secondo l'ipotesi dell'accusa avrebbero collaborato a creare quella che è stata definita la fabbrica di falsi, che ha dato false informazioni al mercato e quindi ha dato una rappresentazione non veritiera di quella che era la reale condizione finanziaria di Parmalat. Questo il quadro. Tra l'altro iniziano ad esserci già le risposte delle banche, no? Di queste banche coinvolte. Naturalmente le banche hanno ribadito, per esempio oggi Citigroup ha fatto subito una nota, appena sono arrivate le richieste della procura, in cui ha confidato che emergerà quella che secondo loro è la verità e che quindi loro non sono stati assolutamente responsabili di quanto accaduto a Parmalat, e confidano naturalmente nella soluzione sia della banca che dei dipendenti della banca che sono stati coinvolti nel processo. Adesso poi la parola proprio già da oggi è passata alle parti civili e nei prossimi giorni ci saranno gli avvocati delle difese, che naturalmente rappresenteranno quella che è la loro versione della vicenda Parmalat, nella quale comunque la questione di fondo per le banche è che loro comunque sono state ingannate da Parmalat e dai dirigenti della Parmalat, e quindi loro non sapevano quella che era la reale condizione di Parmalat, e naturalmente loro confidano di riuscire a dimostrare che hanno fatto tutte queste operazioni e comunque hanno sempre collaborato con Parmalat in buona fede, sono state piuttosto ingannate da Parmalat, che ha sempre rappresentato loro una situazione diversa da quella che poi è emersa con il default della società. Ecco, una questione, Flavia, che direi che interessa i risparmiatori, perché poco fa il Codacons ha detto: se andrà a buon fine questa confisca di denaro, i soldi devono andare ai risparmiatori. Ecco, se andasse a buon fine, in realtà questi soldi dove devono andare? Devono finire in cassa Parmalat? Con alcune di queste società, con queste banche, la Parmalat aveva comunque già raggiunto degli accordi extragiudiziali e quindi si era ritirata da qualsiasi contenzioso con loro. Mentre invece, per esempio, per quanto riguarda Citi, proprio il magistrato ha fatto oggi in aula, ha fatto un accenno al fatto che invece questa è una banca con cui non c'è nessun accordo extragiudiziale. Quindi probabilmente in fase di sentenza capiremo esattamente perché, nel momento in cui Parmalat si è ritirata come parte civile nei confronti di alcune delle banche, probabilmente questi soldi bisognerà chiarire, appunto, se andranno direttamente alle altre parti civili oppure magari torneranno allo Stato. Bisognerà appunto vedere. Credo che comunque le parti civili già costituite sono loro quelli che possono avanzare delle pretese. Adesso ho visto anche il comunicato del Codacons in cui diceva che i risparmiatori potevano ancora fare richiesta. Questo non so esattamente se si può fare, adesso io non sono un'esperta completa nel campo, però credo che siano già il processo ormai appunto alle battute finali. Che in caso di disagio vanno le parti civili già costituite, a quanto ne so io, poi non sempre sì. Pronta a essere smentita. Ti chiedo brevemente i tempi, Flavia. I tempi, allora, guarda, il processo è stato abbastanza lungo. Adesso, proprio perché si è arrivato alla battuta finale, il collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Milano ha cercato di accelerare molto il calendario delle udienze e ha fissato praticamente udienze per tutta questa settimana. Comunque ci sono udienze fissate fino ai primi di febbraio, quindi probabilmente almeno un paio di settimane ci vorranno prima di arrivare alla sentenza. Grazie dunque a Flavia Carletti e l'agenzia di stampa Radio Cor Il Sole 24 Ore. Buonasera. Grazie a voi, arrivederci. Allora, una doverosa risposta all'ascoltatore che ci scrive e ci corregge: il crack Parmalat è stato non di 7 miliardi ma di 14, ha perfettamente ragione, per errore siamo stati buoni con Tanzi, diciamo così, abbiamo dimezzato il crack Parmalat. Ora una breve pausa per la viabilità, poi verremo ai temi della Tunisia. Ve lo dicevamo in apertura perché lo trattiamo, non naturalmente per la questione politica che riguarda la Tunisia, ma per la questione economica, innanzitutto perché questa è una rivolta che nasce anche da esigenze economiche, oltre che politiche, ma soprattutto perché ci sono parecchi imprenditori italiani che si trovano là e ne abbiamo raggiunto qualcuno. A tra poco. Prima di andare al tema della Tunisia, un piccolo aggiornamento dall'Europa, insomma. C'è stata una riunione che ha preceduto l'Eurogruppo e chissà a cosa prelude, ed è una riunione molto ristretta con i paesi con il rating di tripla A, Germania, Francia, Lussemburgo, Finlandia, Austria e Olanda. Vedremo anche questo a cosa porterà. Veniamo al prossimo tema dunque, che è la questione della Tunisia. Allora, la parte di pura cronaca delle violenze della rivolta ve la stiamo ampiamente raccontando nei giornali radio, anche grazie alle corrispondenze dell'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri. Però, come si diceva, la questione è essenzialmente economica, o meglio, in gran parte economica, la rivolta. Cosa è stato al centro di tutto? Cos'è che ha fatto esplodere la rabbia? Naturalmente l'aumento delle materie prime, l'aumento dei prezzi dell'olio e del pane, questione che tra l'altro sta creando qualche problema anche in altri paesi del Maghreb, Algeria naturalmente, e da dove è partito tutto, e poi l'Egitto. Un paese, la Tunisia, che ha il 23% della popolazione che ha meno di 15 anni, la disoccupazione al 14%, e la disoccupazione giovanile è almeno al 30%. Una presenza italiana molto fitta, sono 704 le imprese italiane per 55.000 addetti e si investono ogni anno 200 milioni di euro. Sentiamo qualche intervista che ha realizzato oggi la nostra Alessandra Schepisi, che ha sentito alcuni imprenditori e rappresentanti di diversi settori per capire com'è la situazione. Cominciamo con Pierluigi D'Agata, che è direttore generale di Assafrica e Mediterraneo, che è l'associazione imprenditoriale specializzata del sistema Confindustria, che riunisce, rappresenta e supporta le imprese italiane nei 70 paesi del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente. La situazione a ieri sera sembra sotto controllo. Noi abbiamo istituito a partire da giovedì sera, d'accordo con l'unità di crisi della Farnesina, l'ambasciatore tunisino a Roma e la Confindustria tunisina, un help desk Tunisia che sta monitorando tutte le eventuali rilevanti problematiche delle imprese nostre associate, di altre 1500 imprese che sappiamo sono interessate dall'area. Ieri sera segnalazione di fatti rilevanti non ce ne sono state, salvo ritardi nelle consegne, blocco dei camion negli stabilimenti o nel porto. C'è sicuramente il problema del circo bloccato nel sud del paese, ma diciamo dalle imprese industriali almeno per ora non ci sono arrivate delle problematiche. Però in generale, se non ci sono stati danni, questa situazione caotica qualche ripercussione a livello economico? Certamente, perché alcune aziende hanno chiuso già da giovedì gli stabilimenti tunisini e altre sono con mancanza di consegno, con impossibilità di effettuare le spedizioni. Il nostro help desk continua a essere in funzione e quindi monitorerà, d'accordo in collegamento con l'unità di crisi della Farnesina, l'evoluzione della situazione. E ora dalle associazioni passiamo a parlare invece di qualche singolo imprenditore, a partire sempre al microfono di Alessandra Schepisi, da Davide Baratti, titolare della Clairprem, che è un'azienda con 600 dipendenti, di cui 150 in Tunisia, che produce accessori per il settore automobilistico. La zona industriale dove ci troviamo noi è stata protetta dall'esercito, quindi danni non ne abbiamo avuto. Noi siamo rimasti fermi solo venerdì, quando c'è stato lo sciopero generale, poi abbiamo lavorato sabato e stiamo lavorando oggi a turni ridotti come lunghezza, perché c'è coprifuoco, però noi siamo ripartiti e siamo in produzione. Naturalmente adesso quello che per noi è fondamentale è che vengano riaperti i porti, sia per quanto riguarda le forniture verso i nostri clienti, sia per quanto riguarda l'alimentazione della materia prima, perché se no nella nostra azienda restiamo senza materia prima e tutto quello che abbiamo prodotto non può raggiungere i nostri clienti. Noi abbiamo 3 camion fermi al porto che aspettano di essere imbarcati e se non viene sbloccato il porto, naturalmente noi dobbiamo partire immediatamente con un piano di securizzazione e di conseguenza far partire immediatamente altri stabilimenti che noi abbiamo, questo sicuramente. Lei sa di altre aziende che hanno avuto danni? I nostri fornitori che si trovano nella zona industriale industriale lì vicino problemi non ne hanno avuti, altri fornitori che si trovano nella zona di Hammamet non hanno avuto danni, stanno anche loro ripartendo nella giornata di oggi, e invece a livello di amicizia altri imprenditori che si trovavano nella zona di Tunisi hanno avuto problemi ben più seri. Sono stati bruciati gli impianti. La situazione per quanto riguarda la vita è caotica, però io ho sentito i nostri collaboratori e hanno raggiunto lo stabilimento senza grosse difficoltà, cioè niente a che vedere rispetto agli altri giorni. Sempre al microfono di Alessandra Schepisi, Francesco Germanetti, titolare della Germanetti, azienda specializzata nel trasporto tra l'Italia e il Nord Africa, la cui sede venerdì scorso è stata assaltata da centinaia di dimostranti. Sentiamo il suo racconto. Siamo stati saccheggiati, ci hanno rubato diverse cose, però non ci hanno appiccato il fuoco. I server sono salvi, centralino salvo, l'impianto elettrico salvo. Ma in quanti erano? 800, 1000 persone che ci hanno attaccato. Ma non hanno attaccato solo noi, hanno attaccato tutta la zona industriale. La nostra fortuna o sfortuna, metto come che siamo all'inizio della zona, siamo proprio attaccato alla strada e questo è il problema, che siamo stati i primi e forse... primi, e la gente era affamatissima, voleva rubare, aveva avuto questo miraggio di poter fare quello che voleva e siamo stati i primi attaccati, perciò quelli attaccati forse più duramente. Diciamo anche che ci sono stati altri magazzini che oltre ad essere attaccati come noi gli hanno anche dato fuoco, e questo è molto più grave, perché capisce che se ti incendiano pure il magazzino ti mettono in ginocchio. Magazzini intendo magazzini doganali, lì è una zona portuale dove ci siamo tutti operatori logistici o trasportatori, e perciò erano tutti magazzini sotto dogana. Dicono che sicuramente delle aziende italiane sono state incendiate. Lo stato d'animo tra i suoi dipendenti oggi qual è? C'è la grande voglia di ripartire, c'è la grande voglia di riniziare per poter così azzerare, dimenticare questo momento così difficile, andare avanti, anche perché siamo, non dico usciti dalla crisi, ma stiamo così iniziando ad uscirne. Un colpo così potrebbe risultare mortale, invece se ci rimbocchiamo tutte le maniche e facciamo del nostro meglio per poter dimenticare questa cosa e uscirne molto molto molto presto. Quindi la situazione secondo lei è in miglioramento? Sicuramente la situazione è in miglioramento. Sono venuto via venerdì sera ed era una situazione incredibile, non c'erano macchine in giro, non c'era nulla, la gente aveva paura. Oggi le dico, i miei dipendenti, la Germanetti Tunisia, circa 100 dipendenti, erano tutti a lavoro, la gente vuole lavorare, la gente ha voglia di riniziare, sento la volontà di queste persone di voler dimenticare e ricominciare il più breve tempo possibile. Infine Alessandro Bregolato della Save Telecomunicazioni, azienda presente in Algeria, altro luogo caldo tra l'altro da 5 anni e da poco con una sede in Tunisia. Noi abbiamo aperto la società che un mese fa, quindi stavamo adesso insomma iniziando a fare i primi passi in Tunisia. Noi siamo già presenti con un'altra sede, con un'altra filiale, una società in Algeria, e il prossimo passo era quello appunto di stabilizzarci anche in Tunisia. E quindi siamo proprio ai primi passi. Fra l'altro questa settimana avevo un appuntamento giù a Tunisi per cercare un immobile per creare il magazzino, gli uffici che abbiamo bisogno. Di spazi, e quindi siamo in una fase iniziale che adesso logicamente abbiamo molte incognite, perché finché non si stabilizza la situazione siamo bloccati. Abbiamo parlato proprio anche stamattina con il nostro commercialista che lì è tunisino logicamente, e ci dice che insomma la situazione è ancora, cioè mi ha fatto sentire i spari per telefono, le mitragliate che ci sono. E continuerete? Questa situazione vi scoraggia oppure no? No, non è che ci scoraggia, perché siamo convinti che un paese come la Tunisia, insomma, logicamente la gran parte dei tunisini non è d'accordo insomma in una situazione del genere, quindi stanno cercando di tamponare anche loro come possono fare insomma. Questo dunque era il quadro delle testimonianze di alcuni imprenditori che lavorano in Tunisia, da segnalare nella giornata di oggi, sempre per quel discorso che facevamo prima, ossia che queste sono rivolte che derivano anche da problemi economici. Un uomo si è dato fuoco davanti all'Assemblea del Popolo del Cairo in Egitto e protestava contro il sistema di assegnazione del pane. Siamo quasi in chiusura, in studio con noi Giuseppe Cruciani per capire, per immaginare di cosa parlerà la Zanzara stasera. Naturalmente c'è questa storia che è venuta fuori ieri della fidanzata misteriosa di Berlusconi, dunque cercheremo, come ovvio, di dare un volto a questa fidanzata, se esiste poi, perché c'è il sospetto, diciamo, abbastanza forte che sia una tattica. Avete qualcuno titolato a parlare su questo? Beh, insomma, sì, faremo il giro delle signorine che sono state di cui si è scritto, di cui si sta parlando in queste ore. Beh, insomma, la vicenda chiaramente di Rubi dominerà la Zanzara ancora una volta fino alle 21. Bene, grazie a Giuseppe Cruciani. Dunque, tra poco lo risentiremo con la Zanzara. Si chiude qua anche questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Naturalmente Focus Economia torna domani, dopo il GR delle 17, con Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.